24 ore. Borse in rialzo dopo la nuova asta della BCE, assegnati quasi 530 miliardi al tasso dell'1%, hanno partecipato 800 banche. Le proteste in Val di Susa, l'appello del presidente della comunità montana Plano al governo, sulla TAV ci ripensi come per le Olimpiadi a Roma. Mazzette ai vigili per non pagare le multe nella capitale, un commerciante racconta: così ero costretto a pagare. Calcio scommesse, Cristiano Doni viene sentito a Milano dalla procura federale della FIGC. Stasera nazionale in campo a Genova nell'amichevole contro gli Stati Uniti. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano dunque il rifinanziamento delle banche da parte della Banca Centrale Europea. Sentiamo com'è andata in diretta con Deborah Rosciani. Vi racconto subito il primo effetto che si è determinato rispetto all'esito della asta appunto della Banca Centrale Europea, questa operazione straordinaria di rifinanziamento del sistema bancario dell'Eurozona. Si sono moderati i rendimenti sui titoli di Stato italiani. Lo spread è sceso a 345 punti base. E questo perché naturalmente, come è abbastanza noto, la BCE fa questa operazione anche per permettere alle banche di acquistare i titoli di Stato e quindi calmierare i rendimenti che erano letteralmente schizzati nei mesi passati. Cosa è successo, come è andata l'asta? La Banca Centrale Europea ha concesso 529 miliardi di euro alle banche europee in un prestito appunto a 3 anni ad un tasso super agevolato dell'1%, un ammontare questo richiesto che è risultato in netto rialzo rispetto alla precedente maxi operazione straordinaria che si era svolta in dicembre, quando le banche europee avevano chiesto 489 miliardi di euro. Tra l'altro l'attesa del mercato per quello che riguarda l'operazione odierna era in un range molto ampio, fra i 300 e i 600 miliardi di euro, per cui l'ammontare richiesto è nella parte alta di questa forchetta. Questo il quadro. La borsa stamattina attendeva positivamente questa operazione. Gli indici sono partiti con un rialzo di circa mezzo punto percentuale, un po' al di sotto, poi hanno rallentato il passo. Poi dopo l'asta hanno cominciato a ricrescere di nuovo. Milano è arrivata a guadagnare oltre l'1,2% per poi ridurre di nuovo la loro corsa. Londra è sulla parità, Francoforte guadagna lo 0,5%, Parigi più 0,5%, Milano più 0,65%. Sono proprio i titoli bancari oggi a far correre particolarmente Milano. Il miglior titolo è Monte dei Paschi, segna più 3,48%. Tutto. Grazie a Deborah Rosciani. E siamo al capitolo liberalizzazioni. Il decreto legge arriva all'esame dell'Aula del Senato con 1700 emendamenti. In diretta Elisabetta Fiorito. Proprio così, Piera, 1700 emendamenti al decreto liberalizzazione, si va quindi verso la fiducia nell'aula di Palazzo Madama. Nella notte il testo è stato licenziato dalla Commissione Industria, ma proposte di modifiche sono state presentate da tutti i gruppi parlamentari. Ma è sulla fiducia che infuriano le polemiche. Alfredo Mantovano, PDL, si lamenta perché con questo governo non c'è nessun provvedimento che non passi con la fiducia. Replica Italo Bocchino di Futuro e Libertà: colpa di PD e PDL che sostengono il governo con il naso otturato. Ma ad essere scontento è anche il terzo polo, Gianpiero D'Alia. UDC conferma il voto al provvedimento anche se si poteva fare di più sul fronte taxi, professioni, servizi del cittadino in materia di farmaci. Tra le novità approvate in commissione, una farmacia ogni 3.300 abitanti, stretta sulle banche, scorporo Enisnam sul gas, tribunali delle imprese e la protezione civile che non potrà più sponsorizzare i grandi eventi. Sarà poi più veloce ottenere il risarcimento per il furto e l'incendio da parte delle assicurazioni. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Approvato dunque il rating antimafia per le aziende, un provvedimento accolto con grande favore dalle imprese. I costruttori siciliani però mettono l'accento su qualche aspetto ancora da limare. Sentiamo il presidente ANCE Sicilia, Salvo Ferlito, al microfono di Valeria De Rosa. È una cosa apprezzata e apprezzabile, sicuramente dà ulteriore possibilità e linfa alle imprese che denunciano, alle imprese che sono schierate totalmente dal lato della legalità. D'altronde non esistono e non ci sono altre vie se non questa, però diciamo che i protocolli sono da perfezionare, sono perfettibili, nel senso che qualche giorno fa mi è stato segnalato che in alcune rescissioni di contratti proprio per le informazioni cosiddette atipiche, e quindi avendo firmato un protocollo di legalità tra impresa e alcuni subappaltatori o fornitori, è successo che praticamente il fornitore o il subappaltatore ha portato l'impresa in tribunale, l'impresa che ha rescisso il contratto è stata condannata a pagare le spese, gli interessi. Diciamo che non può la mano destra non sapere quello che fa la mano sinistra. Quando noi firmiamo un protocollo di legalità con la prefettura, l'ente, la stazione appaltante, l'impresa e tutto, il tribunale non può disconoscere questo. Chi denuncia deve avere il massimo della garanzia anche nel risarcimento. Lei ha detto oggi ci sono le condizioni, 20 anni fa non era così. Lei ritiene che questo rating antimafia si estenderà velocemente? Mi auguro proprio di sì, perché come dicevo, insomma, ormai le coscienze si sono definitivamente, ritengo, smosse. Lo Stato ci ha dimostrato di essere vicino e ne abbiamo esempi. Un po' paradossale che sia necessario fare un rating antimafia per premiare le... Lo so, questo purtroppo è vero quello che diciamo, però il tessuto era talmente impregnato, talmente che ancora ci vorranno anni, per questo servono misure eccezionali. Non ci sono i soldi, stop della Commissione Bilancio della Camera, le norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti che oggi dovevano essere esaminate dall'Aula di Montecitorio. La Commissione ha dato parere contrario sul testo che dovrà tornare in Commissione. Riforma fiscale, il Governo conferma che ci saranno provvedimenti diretti al riequilibrio del sistema impositivo e il graduale spostamento del prelievo dalle imposte dirette a quelle indirette, quanto si legge nell'atto di indirizzo sulla politica fiscale firmato dal Premier Mario Monti. Anche il Vice Ministro Vittorio Grilli, in un'intervista questa mattina a Sky TG24, ha ribadito l'impegno del Governo a ridurre le tasse. I successi futuri della lotta all'evasione e quindi le entrate maggiori che deriveranno da queste, è chiaro che l'intenzione e la giusta, diciamo così, obiettivo è quello di ridarlo ai cittadini. Il fondo tecnicamente non è stato fatto perché ancora questi ricavi dall'evasione non ci sono e non sono quantificabili, però è una questione tecnica, appena ci sarà l'esigenza lo introdurremo. E proposta shock in Francia del candidato socialista alle presidenziali. François Hollande ha parlato di una tassa del 75% per i redditi sopra il milione, insomma una tassa per i ricchi. Che gioco sta facendo Hollande? Lo abbiamo chiesto al corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, Marco Mussanè. Ma è chiaro che Hollande sta cercando di strizzare l'occhio all'elettorato di sinistra, di cui avrà bisogno assolutamente per il secondo turno delle elezioni. Quello sconcertante è, d'un lato, l'impressione di una certa approssimazione nell'annuncio della misura, che non compare nel programma di Hollande presentato 2 settimane fa e che ha colto di sorpresa anche molti dirigenti socialisti. La seconda è la scelta della tempistica, perché se è vero che Hollande avrà bisogno dell'elettorato di sinistra per il secondo turno, per il ballottaggio dalle presidenziali, sicuramente per il primo turno ha bisogno invece di avere un'immagine più moderata e convincere un elettorato piuttosto centrista. Quindi francamente sembra un'uscita assolutamente estemporanea, quasi un coniglio dal cappello. Che potrebbe ritorcersi contro di lui in qualche modo in questa prima fase? Direi di sì, anche perché la stampa, è chiaro che c'è un problema di fondo che riguarda anche il futuro dell'Europa, che attualmente è largamente appoggiato su un asse franco-tedesco. Allora è vero che anche in Germania ci sono le elezioni nel 2013, ma la Merkel almeno oggi è super favorita, quindi è molto probabile che in Germania continui a governare il centrodestra. Allora la Merkel ha ufficialmente appoggiato Sarkozy, è sicuramente una linea di continuità è largamente preferita a Berlino. L'idea che domani ci possa essere uno scontro molto forte su alcuni temi, tra cui anche quello fiscale, tra Francia e Germania, certo non è una buona notizia per l'Europa, e sicuramente Hollande dovrebbe fare in modo di attenuare e attutire questi contrasti piuttosto che inasprirli. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie dunque a Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. E noi veniamo invece alle cose italiane. In questi minuti, infatti, a Torino l'incontro fra il prefetto e i sindaci della Val di Susa, che chiedono lo stop dei lavori in un clima che si è fatto, dicono, troppo pericoloso. In diretta da Torino, Maria Chiaravoci. Sì, buongiorno. È iniziato da poco a Torino l'incontro fra i sindaci della Valle contrari all'opera e il prefetto Alberto Di Pace. Gli amministratori presenti sono 23 e sono sotto la mole per chiedere con forza al governo di fare appunto un passo indietro e tornare a riflettere su un'infrastruttura che è ancora fortemente contestata dalla popolazione locale. Come ha spiegato entrando in prefettura Sandro Plano, che è il presidente della comunità montana, l'esigenza al momento è quella di calmare gli animi e riportare alla normalità il traffico in valle, anche per non danneggiare l'economia del territorio. La comunità per questo chiede al governo di ripensarci, così come ha fatto con le Olimpiadi di Roma, ma chiederà anche ai manifestanti di interrompere le ostilità. Nel frattempo proseguono sulla 32 Torino-Bardonecchia i blocchi dopo gli incendi di questa notte alle auto dei Notav, che sono ritenuti dolosi dagli attivisti, e i legali del movimento stanno lavorando per depositare un ricorso al TAR contro l'ordinanza prefettizia di allargamento del cantiere. Questo è tutto al momento, più tardi. Grazie a Maria Chiaravoci. E Livio Pepino, ex magistrato e membro del CSM, oggi è un militante Notav. Ha comprato a Chiomonte un metro quadrato di terreno che ora lo Stato dovrà espropriare per costruire l'opera. Sentiamo Pepino al microfono di Alessandro Milan. Io trovo un'assoluta coerenza, perché nel momento in cui ho cercato per anni di promuovere i diritti che sono costituzionalmente previsti, continuo, in una realtà in cui credo che una serie di diritti vengano dati, a fare nel totale rispetto della legge, perché credo che sia un mio diritto comprare un po' di terra e oppormi a chi me lo vuole espropriare con le forme normali, facendo delle azioni legali, non certo facendo delle forme di illegalità. Credo che sia un modo corretto di porre dei problemi, anche perché vede, è facile concentrarsi poi sul frammento finale e sui violenti che fanno delle sciocchezze. Se si vuole risolvere definitivamente il problema della Val Susa, bisogna ricordare che nelle ultime manifestazioni della Val Susa c'erano 50-60 mila persone. Per carità, se si vuole svuotare una valle e deportare altrove i valligiani, ci si accomodi. Una somma di $60,000 agli hacker che riusciranno a violare Google Chrome. È l'offerta fatta dal gigante di Mountain Views, che vuole così testare la sicurezza del suo motore di ricerca. Intanto scattano domani le nuove norme sulla privacy. Un mese fa, quando Google annunciò che avrebbe varato la sua nuova politica sulla privacy, la commissaria europea Viviane Reding si disse soddisfatta. A 24 ore dalla rivoluzione annunciata dall'azienda di Mountain View emergono le perplessità. Bruxelles chiede di aspettare, perché ci sono elementi che vanno valutati a fondo alla luce delle regole in materia di protezione dei dati personali. Google prevede di far confluire in una sorta di account unico tutte le informazioni di ogni singolo utente relative ai vari servizi di proprietà dell'azienda, che sono tantissimi: Gmail, Google Maps, YouTube, il social network Google Plus, le foto di Picasa, unificando i 70 regolamenti finora esistenti. Gli utenti potranno anche decidere come gestire gli annunci commerciali, bloccando le inserzioni o evitando che i loro dati siano usati per le promozioni online. Un'esperienza più semplice e intuitiva, dicono da Google, dichiarandosi pronti a discutere con Bruxelles e con l'autorità per la privacy francese, che è stata molto più dura. Per un utente medio è impossibile capire le norme e l'uso dei dati raccolti da Google, hanno scritto da Parigi, e l'incrocio dei dati fa crescere i timori su quali siano le vere pratiche dell'azienda. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La nuova asta della BCE ha assegnato quasi 530 miliardi al tasso dell'1%, hanno partecipato 800 banche. Le proteste in Val di Susa, l'appello del presidente della comunità montana Plano al governo sulla TAV, ci ripensi, come per le Olimpiadi a Roma. E ripartiamo invece dalla cronaca con l'inchiesta sui vigili romani. In questi minuti il sindaco Alemanno è in procura per un incontro con il procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo. Sentiamo il servizio. Sono 5 al momento i vigili urbani di Roma indagati per concussione, con l'accusa di aver taglieggiato un commerciante. Avrebbero preteso denaro dall'imprenditore Paolo Bernabei, minacciando di denunciarlo per un presunto abuso edilizio in un suo magazzino nel quartiere di Trastevere. La procura di Roma sta cercando di capire se si tratti di un episodio isolato o se anche altri commercianti siano stati vittime degli indagati. Verifiche sono in corso anche sui bilanci del centro sportivo dei Vigili. Nel mirino ci sarebbero alcune sponsorizzazioni sospette. Il sindaco di Roma ha chiesto di fare piena luce sulla vicenda. Ieri il primo cittadino ha di nuovo incontrato il comandante della Polizia Municipale, Angelo Giuliani, che ha fatto sapere di non avere nulla da nascondere. Giuliani ha anche fornito una serie di documenti utili all'inchiesta che Alemanno dovrebbe consegnare in giornata al procuratore capo Capaldo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La Guardia di Finanza di Frosinone ha deferito alla Corte dei Conti per un danno erariale da 90 milioni 6 consiglieri d'amministrazione di ATF, l'azienda che ha gestito negli anni 90 le terme e l'imbottigliamento dell'acqua di Fiuggi, di proprietà del comune. Oltre all'intero CDA allora in carica, lo stesso provvedimento è stato preso per l'ex sindaco Giuseppe Celani. ATF è finita in una grave crisi economica con un deficit di 68 milioni ed una procedura di concordato preventivo. Smantellata fra Napoli e Caserta un'organizzazione criminale specializzata in truffe alle assicurazioni, 24 gli arresti, coinvolti avvocati, personale medico e titolari di agenzie pratiche auto. Inventavano sostanzialmente incidenti con gravi lesioni personali, riscuotendo poi risarcimenti grazie alla complicità di avvocati, personale medico e titolari appunto di agenzie pratiche auto. I sinistri falsi accertati sono più di 70 ed hanno comportato un illecito guadagno di circa 1 milione di euro. Nel gruppo criminale anche l'ex cognato di Francesco Bidognetti, capo storico dei Casalesi. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. La fantasia in tema di evasione fiscale non ha limiti. Ora che i comuni sono stati reclutati ufficialmente dall'Agenzia delle Entrate nel contrastare il fenomeno, vengono fuori alcune chicche su come i cittadini dribblano il fisco. Racconta ad esempio un sindaco che un trucchetto abbastanza frequente è quello della villetta avuta in eredità con una cubatura in più, una sorta di plusvalore ancora non utilizzato. Chi eredita va in comune e chiede l'autorizzazione a demolire la villetta per poi ricostruire. Quando l'ottiene, vende il terreno edificabile per una cubatura maggiore rispetto a quella originaria. E che dire della TARSU, la tassa sui rifiuti, che spesso non viene pagata lasciando una voragine nei bilanci municipali? A Napoli il tema, si sa, è rovente. Il problema dei rifiuti in città è noto. La tassa ha subito un maxi rincaro nel 2009, con un aumento del 60%. Rincaro deciso proprio per risolvere il problema, ma rimasto sulla carta. Da quando infatti è stato deciso l'aumento, le percentuali di riscossione sono crollate dal 56% al 12%. Insomma, solo un napoletano su 10 paga la tassa sui rifiuti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il 7 marzo scade il mandato del cardinale Angelo Bagnasco, che tuttavia sarà riconfermato alla guida della Conferenza Episcopale Italiana. Si fa sempre più difficile invece la posizione del segretario di Stato, il cardinal Bertone, dopo la pubblicazione sulla stampa di diversi documenti riservati che lo riguardano. E c'è chi dice che al compimento dei 78 anni, fra qualche mese, il Papa potrebbe sostituirlo. Di tutto questo, Katia Caramelli ha parlato con Giacomo Galeazzi, vaticanista della stampa. La riconferma prevista appunto per il 7 di marzo del cardinal Bagnasco significa due cose. Primo, che il Papa intende mantenere questo profilo autonomo della CEI rispetto al Vaticano, e secondo, che Vatileaks, cioè l'insieme di scandali rivelati da documenti segreti filtrati sui giornali, non ha colpito la Conferenza Episcopale Italiana se non marginalmente, mentre ha colpito, anche se non in maniera decisiva, il segretario di Stato Bertone. Credo che il Papa non sostituirà nell'immediato a 78 anni il cardinale Bertone, perché il legame tra il Papa e il cardinale Bertone risale proprio al conclave, cioè Bertone è stato uno dei principali sponsor dell'elezione di Benedetto XVI, quindi sicuramente esce un Bertone limitato appunto nel suo raggio d'azione, ma non in uscita, cioè non è sicuramente prossima alla sua sostituzione. Probabilmente l'averlo colpito in maniera così esplicita attraverso la redazione dei documenti involontariamente non fa che rendere difficile la sostituzione di Bertone, cioè cambiarlo adesso significherebbe in qualche maniera avallare quelle informative, ma soprattutto sconfessare l'impostazione stessa del pontificato che ha visto in Bertone il proprio architrave. È stato trovato morto l'escursionista aquilano di 37 anni Massimiliano Giusti, disperso dal pomeriggio di domenica sul Gran Sasso. L'uomo era partito domenica mattina insieme ad un altro escursionista, riuscito miracolosamente a salvarsi da una bufera di vento e neve dopo aver dato l'allarme. La Costa Allegra, la deriva da ormai quasi 3 giorni, dovrebbe arrivare a me alle Seychelles domani mattina all'alba italiana. Anna Marino ha raggiunto Claudio Izzi, console onorario d'Italia a Mahé, per sapere come si organizzano l'accoglienza e il rientro dei passeggeri sull'isola. Per quanto riguarda l'arrivo, si è organizzato tutto il possibile, i rappresentanti della Costa sono qui già da ieri pomeriggio e non è una novità, e stanno organizzando con alcune strutture alberghiere almeno una situazione appunto di rinfresco e di possibile accommodation per gli ospiti, per i passeggeri della nave, magari a rotazione, prima di poterli poi imbarcare su voli che stanno programmando per le varie destinazioni. Per le prime comunicazioni con i familiari, com'è possibile organizzarsi perché prendano contatto con i loro cari? Nel momento in cui la nave si avvicinerà e ci saranno coperture per i cellulari, presumo che ognuno avrà la possibilità di chiamare i propri cari. Quanto distante, diciamo, deve arrivare la nave per poter poi mettere in contatto appunto i passeggeri con l'Italia? Dipende dalle coperture, non è facile dirglielo, però presumo che una volta che si avvicinano a Mahé anche di una ventina di miglia dovrebbero essere in grado di avere le coperture. Dipende appunto dalla rotta diretta che farà la nave da sud, minimo già 5 miglia dalla costa dovrebbe esserci copertura. Oggi la perizia balistica sulle armi sequestrate ai militari italiani accusati in India di aver ucciso 2 pescatori scambiandoli per pirati. I primi esiti sono attesi nel weekend. Ieri Terzi ha incontrato i 2 Marò, il ministro degli esteri Terzi. Dall'India, racconto dell'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. La situazione è assolutamente chiara, i passi dell'indagine, delle indagini e delle decisioni legali da qui in poi sono chiari. Già giovedì e domani si saprà qualcosa appunto sulle indagini balistiche per capire quale genere di proiettile ha colpito i due poveri pescatori. Era appunto dal punto di vista del militare una forma di solidarietà, cioè una delle massime autorità dello Stato è venuta fino qua a mostrare la solidarietà dell'intero paese verso i nostri soldati e dall'altro appunto, come dicevo, anche mostrare agli indiani che c'è una determinazione a stare accanto a questi soldati, che i soldati i due Marò non saranno mai abbandonati dall'Italia qualsiasi cosa le autorità indiane decidano. Naturalmente ho parlato anche con Staffan de Mistura, il sottosegretario agli esteri, è un grande negoziatore, è stato tanti anni all'ONU nelle zone più calde del mondo, che sta appunto seguendo direttamente, qui oramai direi da diversi giorni, la vicenda. Naturalmente ci sono tutti i vari passi, cioè la diplomazia italiana è pronta, si sta preparando a tutte le evenienze e ad avere risposte a tutte le evenienze. Potrebbe essere inserito presto nel codice penale il reato di omicidio stradale. Lorenzo aveva 17 anni e mezzo quando la notte del 2 giugno 2010 a Firenze è stato investito e ucciso da un 45enne che guidava ubriaco e drogato. Da allora i suoi genitori lottano perché le pene per chi toglie la vita guidando sotto l'effetto di alcol o stupefacenti vengano inasprite. Attraverso il sito lorenzoguarnieri.com, con l'appoggio di alcune associazioni tra cui l'ASAP Selacci e del sindaco Matteo Renzi, hanno già raccolto oltre 57.400 firme. Obiettivo: inserire nel codice penale italiano la fattispecie dell'omicidio stradale. La proposta prevede l'arresto in flagranza di reato e la revoca permanente della patente dopo il primo omicidio. Si punta inoltre a far passare le pene da 3 a 10 anni a un minimo di 8 o un massimo di 18. Il nuovo reato si configurerebbe quando si commette omicidio trovandosi alla guida con un tasso alcolemico superiore all'1,5% o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ora il ministro dei trasporti Corrado Passera prende in esame il problema. L'introduzione del reato di omicidio stradale stradale è un tema all'attenzione del governo, ha detto il ministro in Commissione Trasporti della Camera. Sulle fattispecie di omicidio stradale ci possono essere delle perplessità. Non ci sono delle perplessità sul fatto che chi uccide sotto effetto di alcol o di stupefacenti debba avere una sanzione sicuramente molto più forte di quella che oggi avviene. Si sta esaminando, ha spiegato il ministro Passera, se il divieto di riprendere la patente assente in altri stati europei non risulti discriminante sul fronte della libera circolazione, ma il governo è al lavoro sul tema, ha assicurato il ministro dei trasporti. L'auspicio è di varare il nuovo codice della strada entro la legislatura. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'ex capitano dell'Atalanta Cristiano Doni viene sentito in queste ore dalla Procura federale della FIGC nell'ambito del procedimento sportivo sul calcio scommesse. L'ex capitano dell'Atalanta è già stato condannato dalla giustizia sportiva a 3 anni e 6 mesi di sospensione dall'attività. E per il calcio giocato stasera a Genova, l'Italia di Prandelli in campo in amichevole contro gli Stati Uniti. Il tempo vola, le occasioni sono ormai poche, gli europei dietro l'angolo, e allora Cesare Prandelli dà una sterzata forte al timone della sua azzurra. Uno scossone a ricordare a tutti che ora più che mai bisogna onorare maglia e bandiera. Primo test pesante, quello di stasera a Marassi contro gli americani guidati dal giramondo Klinsmann. Per me è molta importanza, prima di tutto perché stiamo cercando di far capire a tutti che le amichevoli, quando indossi la maglia azzurra, non sono amichevoli. Formazione inedita ma ricca di premesse interessanti. La giochiamo con Buffon, con Maggio, con Criscito, con Barzagli, con Ogbonna, con Pirlo, con Marchisio, Nocerino, Tiago Motta, Giovinco e Matri. I messaggi sono chiari: De Rossi in panchina, Balotelli a casa adesso e che rischia di restar giù dall'aereo per Polonia e Ucraina. Insomma, da ora in poi niente scherzi, perché azzurra fa rotta verso Euro 2012. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo notiziario è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Prossimo GR 24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.